Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera ad Alberto Quadrocurzio. Buonasera professore. Buonasera. E buonasera a Marco Fortis. Buonasera. Professore anch'esso, Marco Fortis, docente di economia industriale e commercio estero dell'Università Cattolica, vicepresidente della Fondazione Edison, direttore dell'Ufficio Studi Economici Edison, mentre Alberto Quadrocurzio è professore emerito di economia politica nell'Università Cattolica, vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, e hanno unito le forze, Alberto Quadrocurzio e Marco Fortis, per realizzare appunto un volume che si intitola L'industria nei 150 anni dell'Unità d'Italia, paradigmi e protagonisti. Un libro che raccoglie anche contributi e saggi di altri autorevoli studiosi, soprattutto nel campo della politica industriale, da Renato Ugo a Giovanni Zanetti, da Giuseppe Berta a Patrizio Bianchi. Ecco, un libro che prende un po' spunto appunto dei 150 anni che abbiamo già festeggiato due anni fa e che però ripercorre, raccoglie anche gli atti di un convegno, ripercorre appunto questi 150 anni secondo un profilo industriale. Ecco, possiamo dire, professor Quadrocurzio, che l'industria è stato uno degli elementi di forza di questa Unità d'Italia? La nostra tesi è effettivamente quella che lei ha detto, sia a partire dagli inizi post-unificazione, sia in tanti periodi successivi. Subito dopo l'unificazione, un ministro autorevole come Quintino Sella affermò più volte e si adoperò anche a tal fine che un paese che volesse tenere uno standard europeo doveva industrializzarsi. L'Italia partiva in ritardo rispetto a grandi paesi come la Francia e l'Inghilterra, ma era necessario per raggiungerli come paese moderno che l'industria si affermasse e crescesse. Persino Cavour aveva affermato tutto ciò, rinunciando poi a svolgere una funzione attiva per ovvie ragioni, non solo perché gli era troppo impegnato nelle strategie politiche, ma anche perché poi morì ben presto. Nella storia italiana ci sono stati molti altri periodi importanti di industrializzazione come momento primario per far crescere un'economia, e tra questi vorrei ricordare il periodo, direi luminoso, di Carlo Cattaneo come pensatore, ma poi come operatore soprattutto Giuseppe Colombo, che fu uno dei cofondatori del Politecnico di Milano, che poi varò, fondò la Edison e fu attore in molte altre grandi iniziative industriali del nostro paese. Tutto ciò sta ad indicare una prima parte del nostro studio, e cioè quella dei protagonisti. Protagonisti ce ne furono molti altri nel corso della storia, tra i quali protagonisti nel campo della chimica Donegani, protagonisti nel campo delle automobili Agnelli e Valletta, protagonisti nel campo della gomma Pirelli, protagonisti nel campo dell'acciaio come Agostino Rocca, ma molti altri ancora. Nel dopoguerra, secondo dopoguerra, le figure di grandi protagonisti industriali pure ci sono, ma forse non hanno il rilievo di quei precedenti che io ho citato. In ogni caso Valletta rimane uno dei più importanti. Certamente vi furono delle significative innovazioni da parte di Olivetti, che con la sua capacità creativa avrebbe potuto auspicare dei migliori destini della sua impresa, e via via ce ne sono stati tanti altri. Poi i protagonisti diventano, secondo me, ma anche secondo il collega Fortis, diventano quelle personalità distrettuali meno visibili ma importanti, e oggi come oggi i protagonisti sono diventati gli imprenditori del cosiddetto quarto capitalismo, cioè quelli delle multinazionali flessibili che sono presenti in molti paesi, che hanno una forte incidenza sui mercati e che sono anche, direi, dei leader di nicchie, che peraltro non sono nicchie piccole, e si potrebbero fare i nomi della Brembo piuttosto che della Mapei, piuttosto che di tante altre imprese, che certamente denotano che gli imprenditori in Italia ci sono stati e ci sono tuttora. Ecco, e anche i risultati italiani, l'anno scorso le esportazioni italiane, nonostante le difficoltà interne, la perdita di competitività, sono comunque aumentate, quindi c'è una storia che forse questo libro aiuta a raccontare meglio, di una storia di un'industria italiana che è ancora un punto di forza. E qui lo chiedo a Marco Fortis, proprio riallacciandomi alle ultime parole del professor Quadrio Curzio, se la struttura produttiva italiana che è nata dopo questa storia sia ancora una struttura produttiva che ha delle grandi capacità di essere presenti e soprattutto di mantenere il settore manifatturiero come un elemento centrale dell'economia e di quella che noi speriamo che almeno quest'anno possa essere la crescita. Beh, sicuramente l'industria manifatturiera rimane un pilastro dell'economia italiana per numerose ragioni, non solo per il contributo diretto alla creazione di valore aggiunto. Sappiamo che ormai il peso dell'industria manifatturiera non solo in Italia ma anche in Germania è andata riducendosi nel tempo. Oggi la Germania è sopra il 20%, l'Italia è intorno al 15%, ma paesi come la Francia sono ormai scesi sotto il 10% come peso del manifatturiero. Però il manifatturiero ha una rilevanza enorme, non solo diretta, ma anche per tutta l'attività indotta di servizi che genera, cioè gran parte dei servizi che sono aumentati nel PIL come peso in realtà dipendono, esistono solo perché esiste l'industria che li movimenta. Anche le esportazioni sono generate in massima parte dall'industria manifatturiera, non dagli altri settori dell'economia, e anche la stessa ricerca e sviluppo, per cui il ruolo del manifatturiero rimane centrale nei sistemi economici moderni per questo contributo plurimo che il settore dà ai vari comparti dell'economia. Va poi considerato che nel caso dell'Italia, così come in quello della Germania e del Giappone, per citare i paesi di più antica industrializzazione, e nello stesso tempo in Cina e in Corea del Sud, il manifatturiero ha un peso fondamentale nel generare un surplus commerciale con l'estero nei manufatti, che vede infatti questi cinque paesi che ho citato unici nel G20 ad avere un attivo strutturale nel commercio estero di manufatti. Tutti gli altri paesi del G20 sono invece profondamente in passivo, soprattutto la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, a dimostrazione del fatto che ormai sono pochi i protagonisti veri del manifatturiero. Certo, l'Italia è più piccola rispetto agli altri giganti, i due nuovi giganti asiatici e la Germania e il Giappone, i paesi di più antica industrializzazione, è più piccola l'Italia, però continua ad avere un suo ruolo che è dimostrato non soltanto dal fatto che abbiamo molti prodotti cui siamo primi, secondi, terzi esportatori mondiali, ma una recente ricerca che stiamo sviluppando alla Fondazione Edison ha messo in evidenza come all'interno del G7 l'Italia sia il paese che ha il maggior numero di prodotti su circa 4.000 che abbiamo analizzato, in cui il nostro surplus commerciale è superiore a quello della Germania, cioè noi abbiamo circa 1.200 prodotti in cui battiamo la Germania per surplus con l'estero, mentre il Giappone e gli Stati Uniti ne hanno soltanto 1.100 a testa, quindi vuol dire che abbiamo una grande diversificazione nella nostra struttura manifatturiera, non più soltanto nel tessile, nell'alimentare, nel calzaturiero, cioè nei prodotti tradizionali, nei prodotti dell'arredo casa come i mobili, ma siamo diventati sempre più forti anche nella meccanica ed è qui che stiamo mietendo crescenti successi. Ecco, in questa prospettiva però, e voi nelle considerazioni introduttive fate alcune considerazioni appunto dicendo che è necessario di fronte a questa realtà una nuova politica industriale, una politica industriale diversa che riesca a creare un ambiente favorevole alle imprese perché gli imprenditori restino in Italia e investino qui e non altrove. Professor Quadrio Curzio, rapidamente quali possono essere i cardini di questa politica industriale? La politica industriale del XXI secolo in Italia deve essere molto diversa rispetto a quella dei periodi precedenti e io credo che dovrebbe essere orientata su tre filiere. Innanzitutto deve essere sempre coerente con l'Europa, ma non solo nel dare qualcosa all'Europa, ma anche nell'ottenere qualcosa dall'Europa. E non sono certo che l'Italia sia stata sempre la prima della classe nell'ottenere dall'Europa, anche con riferimento ad accordi internazionali che l'Europa stessa ha stipulato. La seconda linea dovrebbe essere quella non di avere un'industria indifferenziata, ma di puntare sempre di più su quelli che sono i settori forti del nostro paese. Settori forti si intende non solo quelli che hanno dei cosiddetti alti valori aggiunti per innovazione tecnologica, ma quelli che hanno alti valori aggiunti per qualità dei prodotti, e in taluni casi l'Italia primeggia nella qualità dei prodotti, quando anche apparentemente non contengano tanta innovazione. E in terzo luogo, certamente dedicarsi anche alle applicazioni della tecnoscienza che possono portare dei risultati importanti nel contesto della competizione più accentuata, dove grandi paesi con grandi investimenti in ricerca evidentemente hanno dei punti di forza maggiori dei nostri. Allora, per concludere, Marco Fortis, in 30 secondi, questi fattori, ovviamente messi in atto nella maniera migliore, possono comunque garantire un futuro all'Italia industriale? Io credo proprio di sì, anche perché le basi sono solide e le nostre imprese stanno dimostrando, nel modo in cui competono all'estero, di avere sicuramente i mezzi per farcela. Quello che manca, l'abbiamo sempre sostenuto, è il sistema paese, che in molti casi ostacola le imprese e rallenta la loro attività, e oltretutto le nostre imprese hanno anche avuto lo svantaggio in questi anni di vedere rapidamente morire in qualche modo la domanda interna per effetto delle politiche di austerità, quindi hanno avuto, diciamo, un fronte interno difficile, ma nello stesso tempo sono riuscite ad andare all'estero e le basi, ripeto, sono molto buone. Basterebbe ricordare che, considerando le prime 15 settori industriali dell'Eurozona, 9 sono tedeschi e 4 sono italiani, cioè l'Eurozona ha una manifattura che parla solo due lingue, tedesco e italiano. E quindi vedremo, appunto, questa sana competizione tra l'industria italiana e l'industria tedesca. Speriamo che quest'anno possa essere un anno di crescita. Io ringrazio Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis di essere stati con noi. Hanno curato il libro L'industria nei 150 anni dell'Unità d'Italia, della collana Fondazione Edison, edito dal Mulino. Sono 568 pagine per 46 euro. Ringrazio anche Pietro Lacorte in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine per sabato prossimo.